Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, ben ritrovati a tutti da Deborah Rosciani ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Il tasso Euribor a tre mesi, spinto dalle attese di un nuovo rialzo del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea, intervento che oggi la BCE non farà ma preparerà il terreno per il prossimo intervento, presumibilmente a giugno, ha toccato due giorni fa il suo valore massimo dall'aprile 2009. Questo tasso è utilizzato, come sapete bene, come riferimento per il calcolo delle rate sui finanziamenti per la casa. È arrivato all'1,40%, appunto due giorni fa. Per le rate dei mutui a tasso variabile si profila dunque un rincaro, il primo che arriva dopo oltre due anni di pausa. Lo stiamo dicendo da tempo che questo sarebbe accaduto. Per qualcuno che magari ha in corso un mutuo non particolarmente pesante, il rialzo dovrebbe essere sostenibile. Per altri che hanno invece in corso mutui di importo elevato e di durata considerevole, allora l'aumento potrebbe avere sicuramente un impatto più preoccupante. Ieri il Sole 24 Ore in edicola ha pubblicato un inserto speciale con tutte le istruzioni per l'uso per affrontare il caro rata, ma in tutto questo c'è anche un'altra novità e l'avrete letta sui giornali in questi giorni. È arrivato il decreto sviluppo del governo che prevede delle possibilità nuove per rinegoziare il mutuo, per passare dal tasso variabile a quello fisso, bloccando cioè ad un valore certo l'esborso mensile fino alla fine del piano di ammortamento. Fino ad ora la rinegoziazione per le banche era stata una facoltà, il mutuatario la poteva richiedere, ma poteva anche sentirsi rispondere no allo sportello, oppure vedersi assegnare appunto delle condizioni poco vantaggiose. La novità importante del decreto sviluppo è che appunto la facoltà diventa un diritto per il mutuatario e poi non è detto che, come dire, sia conveniente effettivamente, anche se si è in difficoltà con il rimborsare la rata, passare dalla rata variabile appunto al tasso fisso. Stamattina di tutto questo parleremo con una accoppiata di ospiti, come sempre ormai consolidata, Maximilian Cellino, il Sole 24 Ore. Max, ciao, buongiorno. Buongiorno. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuo Online, buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente microfoni aperti. Ah, ecco qua, subito Gaia mi ha messo la notizia, l'Euribor a tre mesi è salito all'1,42-40%, al top, anche in questo caso un altro record, un altro appunto top dall'aprile del 2009, quindi l'abbiamo in diretta e allora commenteremo anche questo, se lo riterremo opportuno con i nostri ospiti. Ospiti 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Se già state interrogandovi sulla così opportunità di aderire o meno a questa nuova opzione che prevede il decreto sviluppo insieme a tutte quelle opzioni per alleggerire la rata del mutuo messa in campo negli ultimi anni dal sistema bancario, anche su sollecitazione del governo, ma anche su sollecitazione molto forte delle associazioni dei consumatori, o se non si alleggerire la rata è un'opzione, ma c'è anche l'altra che invece è un po' più forte, perché indica una situazione di maggior difficoltà delle famiglie, che è quella addirittura di sospendere il rimborso del mutuo. Qua abbiamo il piano famiglia, abbiamo il fondo di solidarietà, insomma, come dire, il panorama delle opzioni si allarga sempre di più. Speriamo di non generare ulteriore confusione fra i nostri ascoltatori. Comunque adesso c'è anche l'ennesima opzione messa in campo dal governo con il decreto sviluppo approvato questa mattina. Non vi ho ricordato i numeri per intervenire, 349-238-6666 per gli sms, oppure potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica che è salvadanaio@radio24.it. Prima di iniziare questa nuova puntata volevo però fare una precisazione che ci hanno chiesto molti ascoltatori in merito alla puntata che abbiamo fatto ieri. Abbiamo parlato del voucher lavoro per le prestazioni da lavoro occasionale di tipo accessorio. È stato detto che i voucher devono stare nel limite dei 30 giorni annuali, e cioè che in sostanza quello che è emerso ieri, secondo una risposta data ad una sollecitazione di un ascoltatore, che non si può essere remunerati con il voucher lavoro se si lavora per più di 30 giorni. In realtà non era corretta questa risposta che abbiamo dato, ci siamo riconfrontati con i consulenti che vi abbiamo messo a disposizione ieri e l'unico limite annuale per prestatore è quello economico, è quello dei 5.000 euro netti, che si riducono a 3.000 euro per i disoccupati, e questo vuol dire che non c'è nessun arco temporale massimo imposto dalla legge, per cui una precisazione dovuta. Anche noi, quando sbagliamo, naturalmente corriamo subito ai ripari e facciamo le precisazioni che sono necessarie. Magari ci dedicheremo al più presto all'argomento con una intera trasmissione. Allora, Maximilian, noi avevamo preparato la scheda per la puntata di stamattina, come facciamo sempre, e però siccome il decreto sviluppo è arrivato questa mattina, abbiamo già idea che contenga delle ulteriori precisazioni rispetto a quelle che avevamo messo nella nostra scheda, magari possiamo rifare il punto un po' su quanto contempla questo provvedimento, che in apparenza, adesso non lo voglio naturalmente subito giudicare perché non lo conosco bene, dovrebbe essere un altro provvedimento che viene incontro alle famiglie in difficoltà. Ma la prima cosa che mi viene in mente è se in realtà si parla di una possibilità di passare dalla rata a tasso variabile alla rata a tasso fisso, la rata immediatamente aumenterà, quindi dov'è il vantaggio? Allora, diciamo che qualcuno potrebbe anche obiettare che sia una che bella scoperta avete fatto, cioè, si poteva già fare la rinegoziazione. In realtà, come molti sanno, quando si va dalle banche e si chiede di rinegoziare un mutuo, la banca appunto può rispondere no, e quindi non si riesce a fare, oppure può proporre delle condizioni abbastanza peggiorative per cui uno desiste. In realtà per alcuni mutuatari, quindi quelli che hanno un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e non hanno un mutuo superiore a 150.000 euro, adesso questa facoltà diventa un diritto. Ed è questa la cosa, diciamo, fondamentale di questo passaggio. Dopodiché possiamo anche farci tutti i ragionamenti che vogliamo sulla convenienza. È chiaro che passando da un Euribor del tasso variabile a un IRS che è mediamente più alto in questo momento di 2 punti percentuali, si va a pagare di più prevedibilmente per i prossimi 2 o 3 anni. La rata aumenta. Noi abbiamo fatto oggi su Sole 24 Ore 3 esempi. In uno la rata passa da 631 a 748 euro, in un altro da 591 a 767, dipende un po' dal mutuo, dalla durata del mutuo, per cui è vero, si va subito a pagare di più. Bisogna vedere poi se questo conviene, perché in futuro non si sa cosa succede sui tassi. Diciamo che questo può essere utile per le persone che volevano cambiare, già volevano passare al fisso, per mettere una rata tranquilla, al sicuro, per tutto il resto della durata, certo. E però non potevano farlo perché la banca rispondeva no. Altra cosa importante è che questa misura prevede anche eventualmente l'allungamento del piano di ammortamento di 5 anni. In questo caso la rata si può automaticamente anche abbassare. È chiaro che poi alla lunga si andrà a pagare di più, perché si allunga il piano di ammortamento e bisogna rendere più interessi, però per il momento si abbassa la rata. Per cui anche chi, mettiamo che una persona in difficoltà a pagare adesso 600 euro, ne dovrebbe pagare 770, se allunga, se passa al fisso e allunga, può darsi che possa ritornare anche attorno ai 600 euro. Ora magari Aneda ha già fatto qualche calcolo, sì, su sì, questo, si è portato un foglio di Excel, veramente spaventoso solo a vederlo da lontano. Potrà però essere più preciso. Non scendiamo, oppure possiamo anche farlo, sui dettagli, su cosa dice proprio il decreto, su qual è il cambio, perché noi possediamo la bozza del decreto che è entrato e il decreto è stato approvato qualche minuto fa. Io francamente non ho ancora il testo definitivo, potrebbe essere cambiato, è cambiato per dire ieri sera, dal pomeriggio alla serata è cambiato. Però insomma l'importante è sapere che c'è questa nuova opportunità per chi avesse già in mente, in un'ottica ovviamente prospettica, di bloccare la rata per scongiurare eventuali rincari insostenibili futuri. Maximilian, quindi un po', insomma, l'obiettivo questo. Aggiungo questa cosa, possiamo aggiungerla se le cose appunto non sono cambiate. Una persona mutuataria a tasso variabile mantiene il proprio spread che aveva prima. Se prima aveva, per esempio, la cosa più banale, Euribor 3 mesi più 1%, andrà ad avere un mutuo con IRS più 1%. Poi vedremo quale IRS. Quindi la banca non potrà effettuare questo ricarico, esatto. Non potrà modificare questo ricarico che già appunto impone al sistema, al mutuo. Roberto, Anedda, mi stavo chiedendo se in virtù del fatto che un aumento dei tassi c'è già stato in aprile, che sulla scia di questo aumento l'Euribor si era già cominciato a muovere a rialzo, per cui qualche aumento sulle rate qualche famiglia l'aveva già visto, mi stavo chiedendo appunto se sul vostro sul vostro portale, insomma, sul vostro meccanismo di rilascio di preventivi, come dire, già aumentato il tasso delle famiglie che stanno cercando delle informazioni per rinegoziare, per sostituire il proprio mutuo, per alleggerire la rata, se avete già notato, insomma, dei movimenti un po' più vistosi nei mesi passati. Oh, sicuramente ormai è da parecchi mesi che c'è una forte dinamica di ricerca proprio di informazioni e soprattutto di capire verso dove si sta orientando il mercato, perché siamo proprio in una fase in cui da tassi ai minimi stabili degli ultimi due anni, via via ci si sta invece trasferendo a un periodo di almeno un paio d'anni, come diceva poco fa Maximilian, di, anche se lentamente ma regolari, aumenti del costo del denaro. E quindi i primi mesi dell'anno c'è stata una corsa agli ultimi tassi fissi al 4% o poco più, perché ormai invece ci stiamo spostando verso il 5%, così come anche agli ultimi cap, cioè variabili con un tetto massimo, vicini al 5%, perché anche quelli adesso stanno andando tra virgolette a esaurimento. Alcune offerte durano ancora per maggio-giugno, ma poi aumentando il costo del denaro aumenta anche la soglia di protezione di questi prodotti, rendendoli meno interessanti. Quindi c'è sicuramente in prospettiva una maggiore polarizzazione di mercato tra fisso, da un certo punto di vista, per chi comunque predilige la sicurezza di non dover nel lungo termine di un mutuo, 20 o addirittura 30 anni, esporsi al rischio della variabilità del tasso e quindi della rata, e chi, beato lui, avendo o un reddito elevato oppure dovendo fare un mutuo che tutto sommato è contenuto rispetto al proprio reddito, possa anche sostenere il variabile, non tanto per la rata di adesso, che sicuramente è ancora molto bassa, ma soprattutto anche in futuro ci fossero pure delle fluttuazioni importanti, rimarrebbero per lui sotto controllo. Le banche stesse stanno, non dico alla finestra, ma comunque cercando di capire un po' come si orienta il mercato, quindi non ci sono tantissime offerte in questo momento, alcune sono ancora in auge, e dicevamo prima alcuni tassi fissi sotto il 5%, qualche cap vicino al 5%, alcuni spread anche sotto l'1%, ma per il resto si stanno un po' facendo i conti su quello che sarà la possibile prospettiva di lungo termine, non tanto dei prossimi mesi quanto anche del 2012, perché sicuramente degli aumenti ci saranno anche lì. Infatti, Roberto, allora guarda, a questo proposito devo andare in pausa, ma ci butto dentro prima del nostro primo break l'osservazione e la domanda di Walter da Venezia, a cui chiedo di farcela in maniera molto veloce. Walter, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, molto velocemente io volevo sapere una cosa e mezza, diciamo. La prima, se c'è una previsione da qui a un anno che cosa può succedere sull'Euribor, perché è già la seconda volta nell'arco di due mesi che sta aumentando molto velocemente. E la seconda domanda che volevo fare molto velocemente è: io ho già rinegoziato il mutuo da variabile a fisso 5 anni fa, 4 anni fa, dove i variabili praticamente erano più alti dei fissi. Adesso nella rinegoziazione la banca mi ha aumentato lo spread di mezzo punto, da 1 a 1,5. Nella futura rinegoziazione io volessi portare il fisso, posso rinegoziare di nuovo anche lo spread? Tutto dipende chiaramente dalla, come dire, disponibilità del suo direttore di banca. Adesso ne parleremo di tutto questo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Stamattina siamo ritornati sui mutui perché, come avete sentito, nel decreto sviluppo approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri c'è anche una misura sui mutui, una misura che tenderebbe a dare la possibilità ai consumatori di sterilizzare gli aumenti futuri che arriveranno sul fronte dei tassi di interesse, e vi spiegheremo adesso, perché ancora non abbiamo fatto, il meccanismo di funzionamento. In realtà la cosa importante di questo provvedimento è che, mentre prima per rinegoziare, surrogare, sostituire il proprio mutuo si doveva andare in banca e ovviamente chiederlo ed essere molto convincenti con il direttore per ottenere questa opportunità, adesso invece sulla base del decreto sviluppo, aspetto che non ho motivo di dubitare farà molto arrabbiare le banche, per le banche diventa un obbligo accontentare praticamente il consumatore. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Avevamo sentito quello che ci ha chiesto Walter da Venezia, un paio di aspetti. In primo luogo Maximilian Ancellino ci ha chiesto quali previsioni si possono fare sui tassi, perché lui ha già notato un certo movimento su quelli che ovviamente riguardano il suo mutuo. Bene, oggi il suo mutuo mi sembrava avesse un fisso lui comunque. Sì, tra l'altro però, perché aveva lui già fatto una rinegoziazione, perché vuole per fare tornare. Il nuovo cambio, esatto. Quindi è una domanda ovviamente interessata quella di Walter. No, interessata che interessa a tutti quelli che hanno ovviamente un variabile. In precedenza stavamo dicendo che oggi ci sarà la riunione della Banca Centrale Europea, non rialzeranno i tassi, però Jean-Claude Trichet ci darà qualche indicazione sul futuro. Quando la rifarà? In questo momento i mercati si aspettano altri due mosse al rialzo di 25 punti base, di 0,25%. 2% da qui a fine anno e poi probabilmente altri a proseguire nel 2012. L'Euribor già all'1,40 li sconta, ecco. Sì, diciamo che ne sconta uno scarso. Però noi possiamo vedere i contratti future sull'Euribor che praticamente sono quotati a Londra e ci danno le attese del mercato su questo tasso e ci danno un Euribor al 2%, 2,08% per fine anno e poi via via in graduale risalita fino al 3% nel settembre 2013. Io cito il 3% perché... 2013. Esatto. Mm. Ovviamente sono previsioni del mercato che cambiano, che sicuramente cambieranno oggi pomeriggio quando avremo le parole trisce. Ecco, io ho citato il 3% non a caso perché Walter giustamente e altri si stanno un pochino preoccupando per il rialzo dei tassi, già stato elevato, si parla di tassi ai massimi di 2 anni. Ecco, il 3%, lo voglio ricordare, è il tasso medio che è stato realizzato dal 99 in poi, da quando appunto esiste quindi, l'Euribor, compreso il picco del 2008, ecco. Dal 2008 in cui l'Euribor a 3 mesi era arrivato al 5,39%, per cui adesso parliamo di rialzi di rate che mediamente, di un mutuo che mediamente potrebbe aumentare di 450 euro l'anno nel 2011 rispetto al 2010. Si tratta sempre di valori che sono del 30% e in alcuni casi anche del 50% inferiori a quello che si pagava nel 2008. Certo. Tutto va relativizzato. Chiaro che le famiglie soffrono, però tutto va relativizzato. Certamente. No, tra l'altro ricordiamo anche che quella era veramente una situazione schizofrenica che speriamo non si ripeta mai più, però insomma non diamo nulla per scontato e per certo, perché poi vediamo che quando arrivano le sorprese ci piombano addosso in maniera tutta inaspettata. Walter da Venezia, Roberto Anedda, ci ha anche presentato il suo caso. Lui aveva già rinegoziato il suo mutuo passandolo da variabile a fisso, chiaramente 4-5 anni fa, ha detto probabilmente lo avrà fatto proprio in quel momento massimo, quel culmine della crisi che aveva veramente messo in ginocchio molte famiglie italiane. Lui adesso così starebbe valutando anche la possibilità di rifare un nuovo cambiamento al contrario, probabilmente in questo momento gli converrebbe e come, dipende anche che tipo di tasso ha sul fisso. In quella rinegoziazione, se non ho capito male, la banca gli modificò anche lo spread sul mutuo. Sì, qui le valutazioni sono diverse, innanzitutto con il fatto che è passato da variabile a fisso, a lui non si applicherebbe questa rinegoziazione di cui si sta parlando, perché questa è riservata al di là solo dei limiti, alle famiglie di meno abbienti. Sì, dobbiamo ancora ridare le condizioni. Esatto, ma poi soprattutto a chi ha un mutuo a tasso variabile e quindi per trasformarlo a fisso, viceversa per chi ha un fisso e vuole passare a qualcos'altro, no. Avendo fatto questo passaggio nel 2008, quando i tassi erano ai massimi, addirittura lui diceva giustamente gli Euribor erano più alti degli IRS, vuol dire che probabilmente con uno spread dell'1,5 ha un tasso fisso addirittura superiore al 6%, che è sicuramente elevato, considerando che poi negli ultimi 2 anni i tassi fissi si sono visti addirittura al 4%. E forse sarebbe stata una buona occasione mantenere un fisso, ma passare con una surroga a un fisso così basso. In questo momento i migliori fissi, se uno volesse rimanere su un fisso per surroga, sono intorno al 5%, che è comunque un punto più basso. La rinegoziazione, ripetiamo quello che hai già detto tu prima giustamente, purtroppo dipende dalla banca, quindi non è detto che la banca gli conceda un'ulteriore rinegoziazione né che conceda anche di ridurre lo spread che era stato aumentato. Quindi questa obbligatorietà prevista dal decreto sviluppo riguarda solamente le rinegoziazioni previste dalla misura, quindi il passaggio per le famiglie meno abbienti dal variabile a fisso eccetera eccetera, non è una condizione che varrebbe per tutti quanti? No, da variabile, il riconoscimento del diritto alla rinegoziazione dal variabile al fisso, variabile puro. Esatto. Quindi non misti, questa volta c'è chiaramente scritto, almeno nella bozza di ieri. Per dire, se ci vado io in banca che ho un variabile, lo volessi passare al fisso e vado a dire al mio direttore, il decreto sviluppo prevede che adesso è un mio diritto fare questo passaggio, questa rinegoziazione, posso avvalermi di questa facoltà o non rientrando tra le famiglie meno abbienti non posso avvalermi? Devi farti abbassare il reddito. Devo proprio praticamente... Va bene. Quindi è questo il sì, punto. Cioè, ci sono dei limiti che sono quelli del reddito, del tipo di mutuo ovviamente, dell'importo del mutuo e anche limiti temporali, perché dovrebbe durare, uso il condizionale perché ancora ripeto non abbiamo visto il testo finale, fino al 31 dicembre 2012. Quale platea potrebbe riguardare, allora mi chiedo, un provvedimento di questo tipo? Maximilian, avete fatto dei calcoli, delle stime, insomma quanti, vabbè molto difficile ovviamente poterlo stabilire, però quanti potrebbero essere interessati ad avvalersi di una opzione di questo tipo? Perché le famiglie in difficoltà in questi ultimi mesi si sono già avvalsi di altre opportunità offerte dal mercato, il piano famiglie Trabi, associazione dei consumatori, il mutuo di solidarietà. Chi è in difficoltà ha dovuto sospendere la rata in questo momento. Chi adesso va ad avvalersi di un'opzione di questo tipo che gli fa riprendere la rata a tasso variabile, addirittura gli dà l'opportunità di trasformarla in fisso elevandola? Secondo me, paradossalmente, non è tanto per quelli che sono in difficoltà, ma per quelli che pensano sono convinti di passare al fisso, ma che non riescono a ottenerlo, almeno quantomeno non riescono a ottenerlo a queste condizioni da parte delle banche. Ripeto quello che ho detto in precedenza: per chi è in difficoltà l'opportunità buona può essere quello non solo di passare al fisso, ma anche di allungare la rata, perché in quel caso si abbassa di molto, anche si può abbassare anche di molto il valore della rata. Allora si può rendere sostenibile una rata fissa che, ripeto, per i primi 2 o 3 anni sarà presumibilmente maggiore rispetto a quella che si andrebbe a pagare, che si sta pagando adesso, e quella che si andrebbe a pagare con un variabile. Allora, andiamo anche, stavo ancora guardando così un po' se ci fossero altri dettagli rispetto al provvedimento che ancora non abbiamo, allora direi di sentire qualche ascoltatore. Tatiana da Milano. Tatiana. Buongiorno a tutti. Io volevo raccontare la mia esperienza. Io ho acceso il mio primo mutuo nel 2005 con un tasso variabile. Poi, quando i tassi hanno iniziato ad aumentare follemente, siamo arrivati veramente a pagare molto molto di più di quello che era la rata iniziale, e c'era, adesso non ricordo più quanto fosse l'Euribor, comunque era veramente molto alto. Allora, presa dal panico, mi sono precipitata in banca, ho detto va bene, facciamo tutto quanto, rinegoziamo tutto quanto e mettiamo la rata fissa al 5,60. Dopo, questo nel 2008, a febbraio del 2010 ho surrogato il mio mutuo con una piccola banca di credito cooperativo, mi hanno dato uno spread dello 0,90 e sono passata a un tasso variabile. Ho rifiutato il cap perché mi sembrava veramente eccessivo come costo, come condizione una rata fissa, per cui al massimo mi si allunga la durata del mutuo ma non mi si alza la rata. Questo io credo che sia una soluzione intelligente. Adesso veramente passare a un tasso fisso, io lo trovo, ha detto prima in studio che il minimo che può trovare sul mercato è il 5%, per cui oggi io ho un Euribor a 6 mesi che è comunque dell'1,70, credo, 1,65-1,70, mettici pure uno spread dell'1-1,20, certo, ma non arriverai a un 5%. Ora che ci arriviamo al 5%, se le previsioni sono il 2,5, il 3 nel giro di un paio d'anni, voglio dire, a meno di un tracciatasso. Tatiana, guardi, lei sta facendo questo ragionamento ad una persona che si è sposata il variabile e se lo porterà fino alla morte. Adesso tu vedrai che il mercato come mi punirà per quello che ho detto. Detto questo, io condivido la sua considerazione, e detto questo però ci sono anche altri aspetti da tenere nella dovuta considerazione, cioè che non tutte le persone sono anche così intanto molto lucide nel correre dietro al proprio mutuo ed esaminare in maniera molto puntuale tutto quello che deve fare. Roberta Nedda, la nostra ascoltatrice bravissima, potrebbe essere una nostra ospite questa mattina. Sicuramente l'esempio di quello che ogni mutuatario dovrebbe fare, cioè avere una coscienza non solo nel momento in cui sottoscrive il mutuo ma anche successiva di quello che succede, di quali possono essere le opportunità di mercato. Poi ovvio che tutto dipende anche dalla propria capacità reddituale, dalla propria prevedibilità di reddito più che del futuro, perché per molti è proprio una componente emotiva, psicologica, quella di non volersi affidare per un impegno così lungo come quello di un mutuo, ripetiamo nella gran parte dei casi 20 addirittura 30 anni, all'incertezza del lungo termine di un tasso variabile con quello secondo che me esatto. L'errore di fondo che viene fatto è che anche quando nel momento migliore si è sottoscritto il mutuo a tasso variabile, si tende a non farsi fare intanto un piano preciso di quello che potrebbe accadere, e comunque si ha la convinzione, uscendo dalla banca, secondo me, che il primo aumento dei si arriverà chissà quando. Roberto, l'altra cosa che volevo dire è che purtroppo si ripete sempre anche da questi microfoni quando ci si presenta la solita domanda: ma variabile o fisso? Il concetto è che chiunque sceglie un mutuo vorrebbe trovare la soluzione che vada sempre bene o che sia in assoluto la migliore. La soluzione che sarà migliore per tutta la durata del mutuo non esiste, perché il fisso garantisce da le incertezze, e proprio per questo costa di più. È un'assicurazione. Se il vicino di casa ti viene a dire che lui è un variabile fichissimo, esatto, tu devi chiuderti le orecchie e non starlo ad ascoltare se hai fatto una scelta. Oppure il variabile, mediamente e storicamente, si è sempre rivelato il più conveniente, anche nei momenti di picco, eccetera, perché nel lungo termine si paga di meno, però accettare questa rischiosità, questa variabilità di rata che potrebbe coincidere anche con dei picchi come quelli del 2008 che abbiamo visto, e già i primi due ascoltatori che ci hanno chiamato hanno parlato di difficoltà che hanno avuto al momento in cui c'è stato quel picco, perché la rata era salita di tanto. Queste sono le incertezze alle quali molte famiglie preferiscono non... Se però poi hanno avuto il coraggio di mantenere il tasso variabile anche nei due anni successivi, hanno pagato una rata bassissima, sicuramente che si è ridotta considerevolmente, e con quello stesso vicino di casa adesso possono, come dire, andare a fare un discorso di tipo diverso. Allora, c'è Daniele da Lucca, che sentiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, ritorniamo ai mutui, andiamo a Daniele da Lucca, avevo promesso di sentire lui. Daniele, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno. Ci dica. La mia esperienza è questa: io ho fatto nel 2007 un mutuo a tasso fisso intorno al 5,50%, perché la mia, psicologicamente io preferisco avere una rata costante, sempre uguale. Certo. Ora, con questo aspetto delle surroghe, informandomi, mi è stato proposto di passare a un tipo di mutuo che ha per 24 mesi il tasso variabile e poi si ritrasforma automaticamente in fisso, e io ho trovato la cosa abbastanza interessante e abbastanza anche risparmiosa, perché risparmio intorno a 300 risparmiosa. Euro. Daniele, aspetti lì che c'era una domanda che devo fare a Roberta Nedda. No, l'importante è capire che tasso fisso gli fanno dopo i 24 mesi. Esatto, le hanno già indicato un tetto oltre il quale non andare. Purtroppo non ho le carte dietro, non sono esperto come Tatiana, però le posso dire che il mutuo si accorcia di un anno e la rata che andrei a pagare è inferiore alla rata che attualmente pago. Sì, Roberto. Sì, diciamo che qui bisogna capire se... Ma non è una questione di non essere esperti, è semplicemente che se uno ha le carte magari non si ricorda tutto. Daniele, controlli quale sarà il tasso fisso prima di firmarlo, naturalmente, questa opportunità. L'importante è capire se questo risparmio di rata sia sulle prime 24 rate, che essendo a tasso variabile ovviamente sono più basse del 5,50, o se complessivamente, ipotizzando poi anche il prosieguo del mutuo che sarà a tasso fisso, c'è questo risparmio, perché in questo caso sicuramente la valutazione di Daniele è già corretta, cioè è un'occasione per risparmiare, quindi bene prenderla. Dipende anche molto da qual è la durata complessiva del mutuo. Del mutuo, certo. Maximilian, il dubbio, Daniele, che le deve venire quando leggerà di nuovo le carte è appunto su quale sarà il tasso fisso futuro, perché può darsi che ci sia scritto il tasso fisso poi lo ricontratteremo, oppure sarà l'IRS più qualcosa. Il rischio per lei è che nei primi 24 mesi, come tutti sappiamo, pagherà di meno. Un conto che ci poi sia magari... indicata già una percentuale precisa tipo 5%, un conto che ci sia indicato 5-7% IRS sul termine IRS. Perché può darsi anche di no che lei fra due anni, quando va a ricambiare in fisso, si trovi un fisso superiore al 5,7%. Allora in quel caso forse non è così tanto conveniente. Ecco. Maximilian, abbiamo detto tutto, anche se non sappiamo tutto, rispetto al provvedimento del governo nel decreto sviluppo sui mutui. Lo abbiamo detto che scatta il diritto alla rata fissa, come titola il tuo pezzo questa mattina sul Sole 24 Ore, quindi per una certa tipologia di famiglie che hanno una determinata condizione economica scatta il diritto appunto ad avere la rinegoziazione del mutuo. Ricordiamo quali sono appunto le condizioni finanziarie delle famiglie delle quali si parla nel provvedimento. Sì, le famiglie non devono avere un reddito equivalente ISEE di maggiore di 30.000 euro l'anno, che è lo stesso requisito che vale per il fondo di solidarietà, che è una delle misure che permette la sospensione del mutuo. In più il mutuo non deve essere stato all'origine superiore a 150.000 euro. Anche questo è un altro parametro interessante, però, per cui una volta, perché teoricamente diciamo una famiglia con un reddito basso non ha potuto chiedere un mutuo più elevato. Esatto, diciamo che una volta questo 150.000 euro invece era il limite, che poi potrebbe essere anche superato in alcuni casi, dell'altra sospensione, quella del piano famiglie dell'ABI. Quando all'ABI venne fatto notare che forse questo limite non era poi tanto alto, l'ABI disse vabbè, le banche banche possono anche aumentare, e qualcuno l'ha fatto, non tutto per la verità, perché probabilmente in una grande città come Milano e Roma 150.000 euro per acquistare una casa per un mutuo, insomma, non sono poi molti. L'ABI fece notare che era comunque, si trattava comunque dell'85% dei mutui erogati allora. Non so se adesso, sono passati 2 anni, la situazione è molto cambiata. Credo che la durata media sia ancora attorno ai 130.000 euro. Sì, infatti, almeno a giudicare dal bollettino di Mutui Online, credo che tra richieste e derogati gli importi sono sui 143.000 euro, se non ho visto male le tue slide, Roberto, sì, prima. 130.000, poco più di 133 fino al 2010, in questi primi mesi è leggermente in calo, proprio per il fatto che salendo un po' i tassi, ovviamente la rata che ci si può permettere magari si riduce leggermente. Ecco, il piano famiglie, per esempio, Maximilian faceva riferimento anche ai lavoratori dipendenti che avessero perso la condizione appunto di occupazione per poter avere l'opportunità della sospensione del mutuo. Qua in questo caso, nel provvedimento del governo non si fa nessun riferimento. In realtà, perché se ci fosse un lavoratore autonomo che vuole andare a rinegoziare il mutuo, prima c'era questa discriminazione in sostanza, perché ai lavoratori autonomi non è stata data nessuna opportunità di sospendere il mutuo. Hai toccato due temi abbastanza importanti. Primo, la perdita del lavoro, perché in precedenza abbiamo raccontato come nel 2008 i tassi fossero più alti, per cui non si vede perché ci si debba preoccupare adesso. In realtà qualcuno si preoccupa giustamente, perché rispetto al 2008 la situazione, ahimè, reddituale delle famiglie è peggiorata, per cui qualcuno che ha perso il posto di lavoro può avere difficoltà. In questo caso però probabilmente ha già chiesto, e sono stati abbastanza, perché sono state 40.000 famiglie, ha già chiesto la sospensione, che è una sospensione temporanea, poi alla fine dei 12 mesi bisogna tornare a pagare anche di più, e quindi si può essere sempre in difficoltà. L'altro problema è appunto quello dei lavoratori autonomi, che anche per problemi procedurali non sono mai stati ricompresi in queste né nel piano famiglie né nel fondo di solidarietà. Qui sta al buon cuore del direttore di banca, molto tra virgolette, della banca, accettarlo. Certo, soprattutto insomma il direttore che magari conosce bene il suo territorio, conosce bene quel piccolo imprenditore, magari qualche favore. È probabile, e concludo, che un lavoratore autonomo che abbia perso il lavoro abbia un reddito equivalente abbastanza limitato, e in questo caso può passare al tasso fisso. L'ultima domanda, Lorenzo da Prato, telegrafico. Lorenzo, e poi lascio concludere a Roberto Anedda. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anch'io volevo raccontare velocissimamente la mia esperienza. Io ho contratto un mutuo a tasso variabile nel dicembre 2009, mi ha aumentato leggermente l'Euribor, diciamo da 0,4 punti percentuali circa, e mi sono fatto spaventare, quindi ho richiesto la surroga al fisso, e credo di aver ottenuto uno degli ultimi tassi fissi buoni, perché io ho per i primi 24 mesi un 2,95% e per i successivi 22 anni il 4 netto. Grazie a questo, anche aver ricercato su Mutui Online. Eccolo là, lo spottone per Roberto Anedda. Esatto. Lorenzo, grazie, devo salutarla perché ho 10 secondi di tempo. Vabbè, quale miglior conclusione, Roberto? Lo ringrazio, ma effettivamente però, quando il fisso al 4%, ragioniamo su quello. Sì, sì, esatto. Era un mutuo, tra l'altro, del Banco Popolare. Mi ricordo che era un'offerta molto rilevante. Infatti, tanti clienti l'avevano richiesto. E obiettivamente è un prodotto che meglio di così non si può. Cioè, i fissi più bassi di quello non si sono mai visti. E in questo caso è stato fortunato, nel momento giusto Lorenzo ha fatto il cambio giusto una volta tanto, e quindi in questo caso è meglio che se lo tenga stretto. Benissimo, allora non appena avremo ulteriori dettagli sul provvedimento sui mutui previsto oggi dal decreto sviluppo, a parte tutto quello che già Maximilian Cellino scrive stamattina sul Sole 24 ore, ritorneremo su questo argomento. Intanto grazie a Max Cellino e Roberta Nedda, grazie a tutti per essere stati con noi, a domani.